Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Grigliottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado. Ed eccoci di nuovo qua a una puntata della rubrica Grigliottosa, ma questa settimana abbiamo il piacere di rimandare una puntata di una radio sorella che si chiama Radio Plaza, puntata in diretta dall'ultimo raduno intergalattico di Genuino Clandestino e in particolare dal porticciolo di Pastena a Salerno. Quindi abbiamo tutti i resoconti dei vari tavoli che ci sono stati, ma non solo, un po' i riassunti delle giornate e un finale col botto al nostro amico Caterpillar. Ma non vi dico altro e vi lascio all'ascolto della puntata. Radio Plaza sta per cominciare. Un posto a dove respirare un malato, un ambiente insano di rifiuto sotterrato. Campo andando un posto a dove più fisso, un posto a posto visto e come sa ragione sulla mente che è mazzata. Campo andando un posto a dove respirare un malato, un ambiente insano di rifiuto sotterrato. Campo andando un posto a dove più fisso, un posto a posto visto e come sa ragione sulla mente che è mazzata. Non tenere conti tutti incapati storti, non tenere conto di peggio guardie da scorta, non tenere conti chissà ci rapisce gestione lo crimine. Minimo tutto quello che comporta. Una creatura mo te sta accorta. Pensa che chi tu scemo è pure più forte. Dire che mala short. Chi con mano destro sinistra faustis basta che aveva fetta la torta. Dida, rumanga più sconvolto. Dice tu pensa saluto tanta vita è corta. Si vuoi fatica fissa troppo sull'andire. Se non è te vira come a volo se chiudi il porto. Campo andando un posto a due respirare malato. Un ambiente insano di rifiuto sotterrato. Campo andando un posto a doppio fisso, un posto a posto visto e cosa ragione sulla mente che è ammazzata. bomba andando posto a due respirare malata. Ambiente insana di rifiuto sottenrata. Bomba andando posto a due più fissa in posto a posto visto che sa ragione sulla mente che è mazzata. L'alienazione è un fenomeno periodico. La condizione peggiore ci rende a tutto quanto è più neurotico. Scatta di sapore si sa parla sulle palloni, ma su me tutto d'accordo si sanno e senti ne melodico. Yo, e senti ne melodico. Quello che fanno sti video che parano ironico. E invece posso essere deleterio. Meno male che si rende in dance. Ho qui ma friends adventi euforico. Blow, malata cronica. Grazie a raga ma fin da vente sempre più tonico. Rata mono nel microfono. A me da gente senta strofe. Mi sta da bobiru manatonito. Capo danno posto a due respirare malato. L'ambiente in sana di rifiuto sotterrato. Capo danno posto a due più fissa in posto a posto visto che sta ragione sulla mente che è mazzata. Capo danno posto a due respirare malato. L'ambiente in sana di rifiuto sotterrato. Capo danno posto a due più fissa in posto a posto visto che sta ragione sulla mente che è mazzata. Radio Plaza, frequenze dinamitarde. Intermittente, extra radiofonica, libera, itinerante, estemporanea, che trasmette in streaming su collettivoutopia.noblogs.org. Irriverente, irritante, irrilevante, indipendente, direttissima, sperimentale, imperdibile, imprendibile. Radio Plaza è estemporanea, ultra superfonica, servizio di nessuno. Sì, è proprio Radio Plaza, eccoci, nuova puntata di Radio Plaza, io ne valgo la pena, da oggi al Porticciolo di Pasten a Salerno, live in diretta da questo posto spettacolare con un sole fantastico, un mare che ci accoglie, che ci abbraccia, che ci culla. E questa è Io ne valgo la pena, puntata dedicata al raduno intergalattico di Genuino Clandestino, oggi 19 aprile 2026. Siamo al Porticciolo anche perché siamo ospiti e siamo insieme al comitato cittadino Giù le mani dal Porticciolo, comitato apartitico, informale, spontaneo, volutamente non costituito, che unisce residenti, abitanti e attivisti intorno alla difesa di un patrimonio che appartiene a tutte le persone del posto, un patrimonio minacciato dal progetto di un nuovo grande porto. Ci sono dei contatti per una raccolta firme, noi abbiamo il contatto, quello della pagina Facebook, Giù le mani dal Porticciolo. E questa è Radio Plaza, siamo in diretta streaming su collettivoutopia.noblogs.org e live qui dal Porticciolo di Pastena e Salerno. Ci arrivate facile con l'autostrada, col treno, con i mezzi pubblici, un po' attraversando una maratona in corso, a rilento, in mezzo alla maratona, a rilento con due R. Ma così, giusto per introdurre, per capirci un po' qualcosa o per capirsi anche, io ho gli occhiali da sole, quindi mi rivolgo da un lato ma guardo dall'alto dei miei di Genuino Clandestino. Allora, Genuino Clandestino nasce nel 2010 come una campagna di comunicazione per denunciare un insieme di norme ingiuste che, equiparando i cibi contadini trasformati a quelli delle grandi industrie alimentari, li ha resi fuori legge. È chiaro? Sì, direi di sì. Per questo rivendica fin dalle sue origini la libera trasformazione dei cibi contadini, restituendo un diritto espropriato dal sistema neoliberista. Ora questa campagna, quella nata con Genuino Clandestino, appunto, si è trasformata in una rete dalle maglie mobili di comunità in divenire, che oltre alle sue iniziali rivendicazioni propone alternative concrete al sistema capitalista vigente attraverso azioni diverse. Quindi oggi Genuino Clandestino è fatto da reti territoriali di contadini, artigiani, studenti, lavoratori delle comunità rurali, delle città metropolitane, cuochi, attivisti politici, persone e famiglie che fanno la spesa nei supermercati e nei mercati, cioè anzi non nei supermercati ma nei mercati clandestini. Per la 3 giorni del raduno intergalattico che ogni anno si verifica grazie a Genuino Clandestino appunto ha scelto la piana, qua sta scritto del sole, ma io direi del sele. La piana Vabbè, del sele. Però è anche sole. Ma anche sole. Anche sì, sole. Sì, c'è un sole bellissimo oggi qui a Pastena. Si può dire Pastena? Si può dire, è anche il mio dermatologo. Si chiama Pasten anche lui. Anche lui, eh sì. Okay. Interessa. Ha scelto quindi la piana del Sele per queste giornate, una delle aree agricole più produttive e specializzate del sud Italia, per rinnovare il suo patto con la terra e reincontrare le comunità locali. Il raduno è cominciato venerdì 17, giornata internazionale delle lotte contadine, iniziato alle ore 10 all'Università di Salerno. Sì, è iniziato in bellezza, diciamo così, con un bel presidio di denuncia del cambiamento di rotta in corso in Europa su pesticidi, OGM, riarmo e cybercontrollo. Giornata di protesta, poiché le lobbies che stanno al potere dietro l'ennesima non rivoluzione verde stanno cercando di deregolamentare OGM, riarmo e cybercontrollo, come dicevo prima. E questo era la mattina di venerdì 17. Poi nel pomeriggio è partita la discussione ai tavoli tematici, di cui parleremo poi tra poco con qualcuno che ci illustrerà quali sono poi le conclusioni e i ragionamenti che sono stati fatti a questi tavoli tematici, argomenti varietà. Ti aggiorno un attimo, perché me l'hanno detto così all'ultimo momento, che dopo la discussione di venerdì pomeriggio c'è stata anche una irruzione da Vannullo alle 17, perché pare che ci sia stata una contestazione appunto durante un evento organizzato lì sull'agricoltura di precisione. Quindi Vannullo è quello che fa quello là. E quindi sono insomma il presidio ha continuato non solo a Salerno all'università, ma anche di pomeriggio da Vannullo. Però dopo i tavoli, sia venerdì che sabato, c'è stata anche la proiezione di due documentari. Uno è Seed Generation di Giacomo Fausti e l'altro è La Terra Mi Tiene di Sara Manisera e Arianna Pagani. E poi, visto che qui ci sono mani che cucinano e che cucinano molto bene, ci sono state le cene clandestine, la musica dal vivo con il cantato gestito, al Burian Sound System, eccetera. Insomma, poi tutto questo ce lo faremo raccontare da chi verrà al tavolo subito dopo il prossimo brano. Però siamo a Radio Plaza. Aspetta, oggi ancora. Tutto è cominciato con la presigla di oggi, con Radio Plaza, Put Your Hands Off Out of My Pocket. Che vuol dire? Metti le tue mani fuori dal mio portafoglio, insomma, vattene. My pocket. Di Mina Krael featuring Chris Fillmore dall'album Try Me del 2009. Sì. E poi la sigla invece era Re dall'armaria malata, dall'album Torre Ghe Bumbaz, dall'album Ragamuffin Soldiers del 2008. Sì, e proseguiamo con la musica. Questa è Radio Plaza. Sì, è Radio Plaza. È Radio Plaza, una radio nata da un'iniziativa antimilitarista una ventina di anni fa, in piazza, in diretta, live e senza registrazione, evolutasi poi in una radio in diretta streaming negli ultimi 10 anni, e tutto bene quel che finisce in radio. E quindi ci andiamo ad ascoltare Mana Mana Kuma di Baba Sissoko dall'album Diana del 2013. Radio Plaza. Jama. Jama mubado utafo fumutato abada. Kakala. Mama, Complimenti per la trasgressione. Vabbè, allora, quello che volevo un attimo avvisare è questo, quello che volevo avvisare è questa cosa qua, che il comitato giù le mani dal porticciolo sta raccogliendo le firme per appunto abrogare il progetto di porto turistico qui a Pastena e l'avvio di un percorso di riqualificazione del borgo marinaro. Tutti quelli che abitano in provincia di Salerno, che mi stanno ascoltando in questo momento, possono raggiungerci qui al porticciolo di Pastena per poter firmare appunto contro questo progetto che a detta dei componenti del comitato distruggerà riconvertendo completamente questo luogo. Però continuiamo adesso noi con il nostro programma Radio Plaza qui al raduno intergalattico 2026 di Genuino Clandestino. Vedo un po' di distrazione nella piazza, però c'è qualcuno che si... Ci piace, la distrazione in piazza ci piace. La distrazione, non la distruzione del porticciolo. Sarà una distrazione? Il porticciolo serve per distrarsi, proprio di fronte al mare, aspetta, bellissimo. Che mi sta cadendo tutto il microfono, okay. Quindi di fronte del porticciolo, bellissimo. Il di dietro del porticciolo, veramente terribile, anni 80. Di quell'architettura proprio terribile. Non lo dire che la gente poi viene per io abbatterei, abbatterei tutto il quartiere di Pastena per ricostruirlo in chiave medievale, va, diciamo così. E così. Invece per dire, insomma, ritorniamo alla puntata, ritorniamo al tavolo, andiamo verso il primo tavolo. Ritorniamo al nostro tavolo. Al primo tavolo. Allora, i tavoli tematici sono una costante di Genuino Clandestino. Ci si raduna intorno a un tema, ci si confronta, si discute, si tentano soluzioni impossibili, quasi sempre, perché il mondo è fatto da gente che vuole distruggere, purtroppo, non è colpa nostra, e vuole contare i soldi. Ok, vado. Sì, benissimo. Allora, parliamo dei semi. Allora, il tavolo ha questo tema, riprendiamoci i semi, due punti. Riprodurli, custodirli e scambiarli. Quali pratiche mettere in campo collettivamente? La domanda è questa qua. La pratica della riproduzione dei semi è uno dei pilastri del bagaglio di saperi e conoscenze di questo mondo e di quel mondo contadino che si sta sempre più inaridendo. In un contesto come quello attuale, dove il mondo delle sementi è gestito da un pugno di multinazionali e dove si stanno per deregolamentare le tecniche di evoluzione assistita, che sono praticamente la sperimentazione su nuovi OGM, e quindi ci sembra necessario rispolverare all'interno di Genuino Clandestino questo tema. Sto leggendo la presentazione di questo tavolo qui, la leggo bene, no? Partendo da un confronto e scambio tra esperienze già in atto nelle loro diverse declinazioni, custodi di semi, case delle sementi, semi di comunità diffusa, eccetera, si è cercato di capire insieme come potenziare le esperienze o, io ci metterei anche, e come costruirne delle nuove. Perfetto, infatti questo è quello, insomma, che è stato un po' il filo conduttore del tavolo che dicevamo, insomma, dal titolo Riprendiamoci Semi, ci racconterà di che cosa poi è venuto fuori da questa discussione Agnese. Però, insomma, così un po' per rompere il ghiaccio e per provare il microfono, così lo alziamo, lo abbassiamo, il tecnico non si lamenta, chiediamo ad Agnese, allora, chi sei, nel senso, anche se vuoi della tua vita privata quello che vuoi, ma insomma, che ci fai qui a Genuino Clandestino e in che cosa sei Genuino Clandestino? Ciao a tutte e tutti, allora, facciamo una prova del microfono, mi sembra che stia andando bene. Non decidiamo noi su questa cosa qua, quindi, guardo il tempo. Quindi no, guardarlo nemmeno, l'altro farà tutto da solo, non ti preoccupare. Perfetto. Tu vai liscia, è libera. Allora, io sono Agnese, che bello, mi ricordo una canzone di Ivan Graziani, bellissima Agnese. E sono una produttrice dei Genuino Clandestino Firenze, comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze. E in cosa sono Genuino Clandestino? Allora, diciamo che Genuino Clandestino è quello che mi ha accompagnato praticamente fin dall'inizio nel mio approccio all'agricoltura. Quindi un approccio all'agricoltura molto per autodeterminazione inizialmente, adesso in questo momento anche di vendita, e che però mi ha permesso e insegnato a non soffermarmi su una produzione sola, ma cercare di riavere l'approccio contadino, per cui fare più cose ci consente di sopravvivere. Quindi io mi occupo di ortaggi, aromatiche, un piccolo pezzettino di vigna con un'amica, e un piccolo frutteto, un po' di olivi, insomma. E in tutto questo hai trovato il tempo per venire qui al raduno intergalattico di Genuino Clandestino 2026 e tenere un po' le fila, diciamo, del tavolo Riprendiamoci Semi, e quindi, insomma, il tavolo è arrivato ad una conclusione, cioè, riportaci un poco su quello che è successo. Sul fatto che sono riuscita a venire qui non mi ci far pensare che mi viene l'ansia di tutto quello che sto lasciando in arretrato. Il tema dei semi per noi di Genuino Clandestino Firenze è sempre stato molto importante, molto centrale, ciclicamente lo ritiriamo fuori per cercare di trovare soluzioni. Infatti la proposta di fare questo tavolo nasce da un tentativo della nostra comunità di resistenza contadina di cercare di produrre i semi per tutta la nostra comunità di produttori di ortaggi. Per questo motivo abbiamo pensato di riportarlo anche a livello di Genuino Clandestino Nazionale e, diciamo, per darvi un po' le conclusioni, ci siamo ovviamente confrontati su tutte quelle che sono le pratiche che ogni nodo sta mettendo in campo. Ovviamente praticamente tutte facciamo lo scambio dei semi, e poi ogni nodo ha trovato un po' le sue strategie, quindi c'è chi si è concentrato sulle case delle sementi, chi ha fatto progetti più di condivisione diffusa. E l'idea che cercheremo di portare avanti e che è stata un po' la conclusione del tavolo è stata quella di, abbiamo scoperto, risfoderare, perché è un progetto che era già stato un tavolo che era già stato affrontato anni fa in un Genuino Clandestino in Sardegna. E noi non c'eravamo, com'è che noi non c'eravamo al Genuino Clandestino in Sardegna? Neanch'io, e un po' mi scoccia, Ci saremo. Esatto, appena si rifà ci saremo. Basta sopravviversi. E quindi l'idea sarà quella di fare una mappatura di, fondamentalmente, ovviamente a livello più ampio potremmo essere dei custodi di semi, cioè che se noi facciamo una mappatura, l'idea è quella un po' che se il nodo fiorentino, il nodo campano, insomma tutti i nodi riescono a diffondere una lista delle sementa che hanno e custodiscono, agli incontri intergalattici noi possiamo prima dire: io ho perso il seme di cetriolo, ho perso il seme di zucchina, e riportarci piccolissime quantità di seme per poi riprodurle e riadattarle ai nostri territori, perché ovviamente veniamo anche da areali diversissimi, per cui non è scontato che il seme che io sto portando avanti, se lo porto da voi, andrà bene, ma sicuramente sarà meglio delle ditte sementiere che tendenzialmente non sono manco in Italia, e quindi, cioè, noi diamo per scontato che il seme fatto in Svizzera poi da noi viene bene perché la marca Sativa è famosa, invece no, ti stai mettendo in campo un seme svizzero. E allora facciamo che all'ascolto su collettivoutopia.noblogs.org ci sia qualcuno che conservi i suoi semi e voglia mettersi in contatto con voi. Come potrebbe fare? Allora, bella domanda, bellissima, ci stiamo pensando. Allora no, sicuramente un canale sarà la mailing list di Genuino Clandestino, in cui chiunque può scrivere. Per leggere le risposte deve essere iscritto alla mailing list, però si può rispondere noi singolarmente, quindi diciamo un canale di comunicazione sarà la mailing list di Genuino Clandestino Nazionale. E stiamo capendo come inserire una pagina invece sul sito di Genuino Clandestino. Tutto questo, che poi magari chiudo, con un notevole carico d'ansia da parte nostra a pubblicare sul sito una lista delle sementi che noi custodiamo, perché comunque riallacciandomi al tema delle tee, al tema del monopolio e dell'interesse che in questo momento storico c'è nelle caratteristiche delle piante, dobbiamo sicuramente stare molto attenti e attente, e quindi stiamo capendo come e se pubblicare realmente o se invece rimanere genuini e clandestini. Esatto, cioè quindi magari diffondere la cosa che questa mappatura esiste, questo processo è in corso, però non renderlo pubblico. Vabbè, comunque mantenendo diciamo il metodo di comunicazione sulla mailing list sicuramente si è abbastanza clandestino. E quindi ormai, cerchiamo, no? Genuino Clandestino, lo troviamo online. Ringraziamo Agnese per averci riportato quello che è successo al primo tavolo. Volevo ricordare anche che diciamo l'onomastico di Agnese è il 20 gennaio. Ah, lo so perché giorno prima, giorno dopo, io faccio il compleanno il 21. E vedi. Vabbè, con questo qua addirittura nuovo, proprio, no, questo era solo per perdere tempo. Solo per perdere tempo e cambiare argomento. Andiamo, come andiamo avanti? Io andrei avanti in musica, che dici? Visto che questa è Radio Plaza live dal Porticciolo di Salerno e in streaming su collettivoutopia.noblogs.org. Ringraziamo ancora Agnese, la vedrete qui in giro tra i banchetti e sotto gli stand di Genuino Clandestino qui al Porticciolo a Salerno. Salutiamo tutti gli stand, tutte le persone dietro, davanti e intorno agli stand, e venite gente, venite ad ascoltare buona musica. Sì, vogliamo salutare anche tutte le persone che stanno guardando il mare in questo momento lungo il lato, diciamo così, dietro sud del Porticciolo, che è bene ricordarsi dove stanno i punti cardinali, è importante. E va bene, e quindi passiamo all'Uomo Nero di Bruno Risas, dall'album A Casa Tutto Bene, Radio Plaza. L'album è del 2017, Radio Plaza è adesso. Hai notato che l'uomo nero spezza un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini, vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli, rubano, sporcano, puzzano allora, olio di ricino e manganelli. Hai notato che parla ancora di razza pura, di razza ariana, ma poi spesso è un po' meno ortodosso quando si tratta di una puntana. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta? Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no, e invece no. Hai notato che l'uomo nero spesso è un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita, casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto quella cristiana, per cui ama il prossimo tuo, solo se carne di razza italiana. Ed hai notato che l'uomo nero si annida anche nel mio cervello, quando piuttosto che aprire la porta, la chiudo a chiave col cavistello, quando ho tenuto per la mia vita, seduto su un autobus di Milano, solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano. E tu, tocca pensare che fosse tutta acqua passata, che questa tragica lurida storia non si sarebbe più ripetuta. Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata la primavera, invece no. Passeggiata, che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Io che sorseggio l'ennesima mano seduta a un tavolo sui navigli, pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli, invece no. E invece no. Seduta a un tavolo sui navigli, pensando in fondo va tutto bene, mi resta solo non fare figli, invece no. Radio Plaza dal vivo qui al Porticciolo a Salerno, oggi 19 aprile 2026 al raduno intergalattico di Genuino Clandestino. Radio Plaza, io ne valgo la pena, live in diretta su collettivoutopia.noblogs.org. Stiamo un po' ripercorrendo insieme alle persone che sono state poi le protagoniste, le voci parlanti dei tavoli di discussione di questi 2-3 giorni di Genuino Clandestino, e siamo arrivati al tavolo che porta il titolo Agritech con 2G, con il sistema bellico industriale aggredisce i sistemi alimentari. Quindi un gioco di parole, con questo Agritech si rimanda subito all'idea di un'aggressione. E in che senso lo capiremo subito, con quali mezzi cercheremo insomma di ascoltare bene quello che ci viene detto. E come dicevamo, è stato discusso di questo argomento al tavolo, Andrea ci riporta quello che è venuto fuori. Prima però, un po' per rompere il ghiaccio, un po' sempre per quella cosa di prima che però non diciamo più. Ma io non mi dite più. Aspetta, ah, no, prima io vado a prendere il caffè se volete. Volevo chiedere ad Andrea, fate tra di voi, quanto sei genuino clandestino? Ciao, buongiorno. E quanto sono genuino clandestino? Diciamo il più possibile, ci proviamo giorno dopo giorno, quotidianamente, a mettere insieme la nostra tensione ecologista insieme a quella anticapitalista, e questo appunto significa cercare di rendersi indipendenti per le proprie necessità quotidiane, rendersi indipendenti rispetto al sistema industriale che sta distruggendo il nostro pianeta, sia da un punto di vista ecologico sia da un punto di vista anche sociale e umano, e che esporta ovunque devastazione e guerra. E quindi appunto cercare di non foraggiarlo, almeno avere in primis un atteggiamento, diciamo, di non collaborazione più ampia possibile. Quindi ogni euro che noi togliamo a un supermercato o a una grande industria un euro in meno anche a un sistema di guerra e di devastazione. E quindi ritorniamo al tavolo tematico di cui Andrea ci parlerà tra poco. Faccio io una piccola introduzione. Allora, agricoltura industriale nella piana del Sele. No, questo è un altro. Va bene, allora aspetta Andrea, c'è un po' di confusione perché il sole arriva. Andrea, raccontaci un po' cosa è venuto fuori dal tavolo, che cosa vi siete detti, insomma, qual è, se c'è una conclusione e la proposta, se c'è una proposta, insomma. Allora, abbiamo anche una proposta, in verità, perché appunto il tavolo parlava di questa aggressione appunto ai sistemi agricoli che è portata avanti dal mondo industriale con diversi strumenti che sono armi vere e proprie, quindi tutta la tecnologia digitale, tutta la robotica e anche tutte le scienze genomiche e genetiche con cui sempre di più il comparto industriale vuole appropriarsi del vivente per trasformarlo in una proprietà privata e plasmarlo sotto le proprie mani. E diciamo, abbiamo posto l'attenzione appunto su l'arrivo, sull'immissione poi nei sistemi agricoli, ma non solo, di queste nuove tecnologie che le chiamano le tecnologie abilitanti a cosa? A un nuovo modo di produzione che viene chiamato 4.0, il modo di produzione cibernetico, quindi quel sistema che appunto attraverso tutta una serie di dispositivi digitali vuole porre sotto il proprio controllo tutto ciò che accade per poterlo dirigere secondo la propria volontà. E questo in agricoltura appunto è particolarmente evidente. Pensiamo all'utilizzo delle tecnologie satellitari, all'utilizzo dei droni, a tutte le questioni, no, sulla guida autonoma, sulle nuove tecnologie che vengono vendute come soluzioni appunto alle devastazioni che lo stesso sistema industriale ha causato, e che invece, andando a studiare, anche un po' andando a vedere come viene portata avanti questa campagna di aggressione, noi siamo arrivati alla conclusione che questo qui è solo un metodo per poter giustificare, per poter implementare un'industria bellica che appunto che ha i suoi risvolti nelle notizie che sentiamo tutti i giorni al telegiornale. E questo si mette insieme anche appunto con la questione delle TEA, le nuove tecniche genomiche, che il 18 maggio probabilmente l'Unione Europea farà passare questo decreto, questa legge che le equipara alle varietà tradizionali. Quindi viene detto che le nuove tecniche genomiche non sono tecniche di manipolazione genetica come erano gli OGM, ma addirittura si parla del fatto, anzi sostengono, che queste mutazioni indotte in laboratorio con tecniche complicatissime, utilizzando costrutti biotecnologici avanzatissimi, siano equiparabili alle varietà che il contadino ha sviluppato nel proprio campo in secoli e in millenni. Andrea, possiamo arrivare quindi alle conclusioni a cui siete arrivati o alle proposte che vi siete fatti nel tavolo? Come movimento abbiamo deciso di lanciare una campagna appunto intorno a quella data lì, quantomeno a partire da quella data lì, poi di rilanciare una campagna che stiamo portando avanti già da un anno abbondante, perché appunto crediamo che ci sia l'esigenza appunto di lottare, di non arrendersi allo status quo, a questi fatti nefasti che ci vengono imposti dall'alto, e che bisogna, ahi noi, rinunciare a un po' del tempo della nostra vita passato a fare cose belle in campagna con gli amici, con i compagni, per andare a battere la testa contro questo muro che sembra invalicabile, ma che noi siamo convinti che colpo dopo colpo magari riusciamo a indebolire quantomeno, e poi a far crollare, speriamo. Vorrebbe Ashna se fa Ashna. Anche ricetto capici vicino a luce. Ramo diembe, cade sportosa. Hai voglia? Ramo solo diembe. Questa te la spieghiamo mentre va il prossimo brano. Intanto, sì, di tutto roba che ciò tu frequenti, o pappice forse ce l'hai già nei pantaloni, qualche pappice sicuramente ce l'avrà. Della campagna naturalmente si troveranno informazioni sulla pagina del Giornino Clandestino Nazionale, e insomma andrà seguita perché continuerà, no? È una campagna in itinere, una campagna in corso. Sì, noi stiamo già pensando anche all'autunno, al prossimo incontro, a contestare su vari livelli, quindi centri di ricerca, campi sperimentali, la grande distribuzione organizzata. Mentre noi spieghiamo un attimo ad Andrea la storia del Pappice, che è spertosa la noce, io andrei con il prossimo brano. Sì, prima del brano volevo ricordare a tutti, noi siamo Radio Plaza, e Radio Plaza in questo periodo storico è alimentata dal collettivo Utopia di Marigliano in provincia di Napoli, e si esprime live nelle piazze e in diretta streaming su collettivoutopia.noblogs.org, in cui ci sono anche richiami a Genio Clandestino, a tutti gli altri. Perché diciamo, poi li seguiamo un po' da un po', questa bella gente, siamo insieme da un po'. E quindi mentre raccontiamo un po' la storia del Pappice, e inoltre si stanno ancora raccogliendo le firme per abrogare il progetto che vuole distruggere e ricostruire questo porticciolo qui a Pastena, a Salerno. Vai. E questo è il nuovo circo della piccola orchestra Carasso dall'album Made in Italy del 2011. Radio Plaza. Circo! Circo! Non i trattori, mangia fuoco e ballerine, fanno parte della vecchia tradizione. Adesso un nuovo circo che ha per sede il Parlamento, preso il posto di quel vecchio baraccone. Non sono più pagliacci dalla faccia incastricciata, i veri maestri di risata. Ha lasciato posto con inchino al politico italiano. L'altro sono lì, mangia poco sbagliato parlando. Questi sì che sono festi, questi immagini sono i secondi. E destra, sinistra, senza distinzione. Destra, sinistra, tutti sotto al tendone. Sono un inno lì da mettersi alle spalle. Non sono più le poche, quegli splendidi animali, proprio a far girare le palle. A destra, sinistra, davvero ne vale la pena. E destra, sinistra, scegliete chi fa più scena. Circo! Circo! Venghino, signori, venghino, ammirato il spettacolo dei rappresentanti del popolo. Ed era inevitabile, era inevitabile, ci doveva essere di Pastena, Freedom for Palestine, vai. Sì, certo, per forza, perché questa è sempre Radio Plaza, questo è Genuino Clandestino. siamo al porticciolo di Passena oggi per la chiusura di Passena a Salerno per la chiusura del raduno intergalattico 2026, genuino clandestino. Cercateli, anzi rincorreteli, che questi corrono avanti, eh. E niente, stiamo raccontando un po' che cosa è successo ai tavoli di discussione in questi 2/3 giorni di genuino clandestino. Sbarra nel senso che fermi tutti, ascoltate, sbarriamo la strada a chi è distratto e ascoltiamo, me la so cavata, ascoltiamo invece cosa è uscito fuori. Senti dal tavolo. Spranga no. Sistemi agricoli spontanei, progettazione di sistemi agricoli popolari produttivi dal basso. Ne parliamo con Michele, che ha un po' animato, ha partecipato al tavolo. Prima però, domanda rompighiaccio, come sta succedendo con tutte le persone che si siedono qui oggi a Radio Plaza, ed è per Michele: che cosa fa genuino clandestino in Puglia? Perché Michele viene dalla Puglia specifico. Ciao a tutti innanzitutto, ciao Carmine, ciao, grazie. Ciao, dove dalla Puglia io dello specifico, diciamo, sono a metà tra Lecce e Brindisi e mi muovo, sono un nomade, però non salgo troppo più su, anche se ho una maglietta di Regen che magari non so se fa parte del circuito, ma sicuramente sì, perché si porta avanti gli stessi principi. Qua c'è Urupia, per dire... una realtà che da 30 anni porta avanti questi valori nel territorio pugliese e nazionale, quindi, e adesso è qua, c'è un banchetto. Già citare Urupia dice tantissimo, ma poi ci sono tantissimi piccoli produttori, in realtà ci auto-organizziamo, facciamo mercati, c'è il mercato di Molfetta anche qui presente, quindi c'è abbastanza fermento e movimento per le produzioni, e l'autoproduzione dal basso è genuina e anche un po' clandestina. E quindi? Ma oggi non vuoi proprio parlare. No, oggi sei proprio distratto. Ma tutte le volte sono così. Vabbè, quindi passiamo al tavolo? Quindi passiamo al tema del tavolo, che abbiamo detto... sistemi agricoli spontanei, sistemi agricoli popolari produttivi dal basso. Esatto. Michele, tu hai partecipato a questo tavolo? Sì. O vogliamo fare delle ipotesi? No, ho partecipato, no. Ed è stato un tavolo bello, perché Giacomo, che doveva stare qui a parlare, ha portato il tema, e il tema era su una pratica che lui vuole portare a Como, e quindi di produzioni spontanee. In che senso produzioni spontanee? Quindi non si parla soltanto di piante, ma si parla appunto di persone che spontaneamente hanno il desiderio di coltivarsi una terra, ma non hanno un pezzetto di terra, e quindi come noi, da contadini, produttori e custodi di determinate tecniche, possiamo progettare l'azienda accogliendo famiglie, persone che hanno voglia e necessità di fare autoproduzione, di scoprire anche il mondo agricolo, e quindi, diciamo, tutti quelli che sono i processi dal seme alla crescita, e avere supporto. Sono uscite ovviamente varie problematiche e varie opportunità di questi progetti. Io personalmente già ne porto avanti da tanto tempo a Lecce, quindi ho partecipato al tavolo e sono qui a parlare perché siamo persone che lo fanno. Le dinamiche sono molto belle, di costruzione di amicizie, relazioni, comunità intorno all'agricoltura, che un po' era quella, la produzione immateriale agricola, che non viene mai considerata, perché adesso ci sono soltanto produzioni industriali dove la comunità è staccata dal comparto agricolo, mentre noi siamo cresciuti in campagna, con le famiglie in campagna, con tutti quei valori che collaborare e coltivare insieme erano scontati, tra virgolette, però erano molto importanti per una crescita collettiva sana, e si partiva appunto dalla terra, dalla necessità di cibarsi. Quindi è una ricostruzione di quella cultura contadina, diciamo così, o legata alla terra, che piano piano l'industria ha cancellato, ha estirpato dalla società. Sì, più che ricostruire, vogliamo costruire sopra, perché non si torna mai indietro, si va sempre avanti, noi costruiamo sopra quello che facciamo, perché indietro tutti avevano necessità di mangiare, adesso le dinamiche di un tempo sono cambiate tantissimo, quindi dobbiamo costruire modelli che possono essere utili, non sono alternative a niente, sono soluzioni e non alternative. Quindi c'è chi fa un modello, noi non facciamo l'alternativa, diamo la nostra soluzione a modalità di produrci cibo dal basso, capendo i tempi e le tempistiche moderne, perché anche questa è una cosa, è stata tema di discussione: quanto tempo ha poi una famiglia di dedicarsi all'orto, come lo organizziamo un orto rispetto alle volontà e anche le capacità, invece le conoscenze che rispetto a tanti anni fa venivano già da bambino, tutti avevano già le conoscenze, ma adesso partiamo già da uno step in cui bisogna fare proprio formazione in campo. Quindi è un ambito molto ampio. La cosa che mi viene da lanciare un messaggio a chi ha voglia di coltivare, a chi ha voglia di un pezzo di terra: andate a rompere le sbarre, per citare prima le sbarre, ai con contadini vicini, con le spranghe, ai contadini vicini, per andare o ad aiutarli a coltivare o addirittura a dire: dammi un pezzo di terra che voglio imparare a coltivare, se avete tempo, se ci state ascoltando. Michela, da dove vieni tu? No? Ci sono già degli esempi del genere? Possiamo già dare per certo che questo, diciamo, questa progettazione di sistemi agricoli popolari produttivi dal basso è già attiva? Sicuramente è attiva in tutta Italia ed è attiva pure a Lecce. Citando, ti posso dire la mia esperienza, ma non voglio parlare nel personale, siccome sono qua a Salerno e sono stato a Napoli, negli orti urbani di Napoli, e non so se siete mai stati a Posillipo, negli orti urbani, e sono dei posti bellissimi dove questo si pratica anche con l'aiuto dell'amministrazione comunale. Ora, a Napoli stesso sono cambiati assessore, è cambiata la signora dell'ASL che aveva avviato questo processo, adesso c'è più disinteressamento rispetto a questo tipo di produzioni e quindi è molto più difficile farlo, però hanno fatto negli anni un lavorone tantissimo, grosso. Poi ci sono le CSA che potete cercare sicuramente in tutta Italia, che sono comunità a supporto dell'agricoltura, che anche quelle sono aperte ad andare anche in campo, al volontariato in campo, oltre che a ottenere produzioni, e poi ritorniamo nel discorso genuino clandestino. Perfetto, Michele, grazie mille per la tua partecipazione, grazie per averci riportato quello che è stato detto ai tavoli. Ritorno su una cosa che Michele ha detto: andare avanti e non tornare indietro, mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa, mi viene da dire. Non possiamo tornare indietro nel tempo, siamo sempre avanti, avanti, avanti, guardiamo avanti. E quindi avanti, avanti anche con la puntata di Radio Plaza, perché ora si va di musica, ci ascoltiamo due brani uno dopo l'altro: Il pugile sentimentale di Vinicio Capossela dall'album Live in Volvo del 1998, un breve sottofondo di Pipeline Bill Frisell, e poi il brano, lo conosciamo, Then Belly Full But Me Hungry, Bob Marley and the Wailers, dall'album Netty Dread del 1975. Quando sono nato io. Un pugno di un altro sullo slancio ed ecco il black macigno mi c'entra con un gancio, all'angolo mi spinge, a stento me la squaglio, un uppercut mi stende, sì, ieri stavo meglio, e black macigno pensa, fracassandomi una spalla, che la vita è proprio bella, sì, è proprio una beltà. Al sette ancora striscio con le mie cugine in pianto, mi alzo, tengo sguscio, guadagno qualche punto, non è che io lo faccia, perché in testa un qualche piano che non so dar pugni in faccia da quando ero bambino, e black macigno pensa e mi frantuma la mascella, che la vita è proprio bella, sì, è proprio una beltà. Si fischia giù in tribuna, dagliene perché è un vigliacco, nel corpo a corpo mena, alle corde mi ranicchio, avanza un grossolano siberiano assai ostinato, gli dico vacci piano, sei stanco, tiro il fiato, ma lui non sta a sentirmi, anzi mandosi scervella, che la vita è proprio bella, sì, è proprio una beltà. Mi scassa e se la spassa con la mia incapacità, la box non è una rissa ma sport, bla bla bla, colpisce un uragano, s'accascia poi stremato e mi alzano la mano che non ha mai picchiato, una vita è proprio ok, lui dice pensa un po', sarò K per qualcuno, per altri è KO, la vita è proprio ok, lui dice pensa un po', sarò K per qualcuno, per altri è KO. Thank you. them belly full, but we hungry. A hungry mob is a hungry mob. A rain a fall, but the joint it tough. A yacht a yuck, but you'd not enough. You're gonna dance to jam music, dance. We're gonna dance to jam music, dance. Forget your troubles and dance. Forget your sorrows and dance. Forget your sickness and dance. Forget your weakness and dance. Cost of living gets so high. And poor, they start a cry. Now the weak must get strong. They say, oh, what a tribulation. Them belly full, but we hungry. Hungry mob is a hungry mob. A rain a fall, but the dirty top. A pot of yolk, but you don't know. We're gonna chuck to jam music. Chuck it. Hey. We're chucking to jam music. We're chucking. Buona musica, mi permetto insomma così un attimo di fare un fuoristrada, diciamo, e vorrei dedicare il brano che abbiamo ascoltato proprio ora, quello con Bob Marley, a Caterpillar, che sarà subito dopo la puntata di Radio Plaza. Quindi non andate via, restate, perché appena finisce Radio Plaza dal vivo qui al Porticciolo di Pastena e online su collettivoutopia.noblogs.org arriverà Caterpillar. Invece adesso andiamo avanti con i tavoli, con quello che è venuto fuori dai tavoli della due giorni di Genuino Clandestino, sì. E siamo al tavolo agricoltura industriale nella Piana del Sele e sfruttamento. Tavolo più o meno insomma è stato un po' gestito da Frontiera Sud, ne parleremo subito con Francesca. Intanto diciamo il filo conduttore del tavolo più o meno sarebbe che il concetto di zone di sacrificio descrive quei luoghi dove si concentra più che altrove la speculazione capitalistica con i relativi disagi. È così che si interpreta la Piana del Sele e le dinamiche che qui esistono. Il discorso è partito da qui per andare poi a riflettere in un senso più ampio sul meccanismo di sfruttamento che attacca le persone migranti che lavorano nei campi, riflettendo sul sistema di vulnerabilità indotta e ricatto che lo Stato mette in atto, partendo dalle condizioni di acquisizione del permesso di soggiorno fino ad arrivare ai luoghi di tortura che sono i CPR. Radio Plaza ospita in questo preciso momento Francesca, sentiamo la sua voce. Ciao. Ciao. Ciao a tutte, grazie. Sì, grazie bellissima, di Frontiera Sud. Yes. Frontiera Sud. Yes. Mi puoi presentare Frontiera Sud così, certo. A grandi linee? Certo, allora Frontiera Sud è un'associazione. Va bene, grazie. Okay. No, dicevi, scusami. È un burlone. A grandissime linee così. Va. È un'associazione. Che nasce da un progetto di ricerca partecipata sul territorio proprio di Campolongo, e Campolongo sarebbe la Marina di Eboli, quindi ci troviamo sulla litoranea tra le serre della Piana del Sele e il Tirreno, quindi ci sta una pineta, i lidi e poi la strada e le serre dall'altro lato e delle abitazioni che sono nate negli anni 50-60, abusive, costruite per lo più dalla camorra, quindi dalle organizzazioni criminali. C'è un po' tutto. Non dobbiamo mancare niente. È lontano da tutto, ma c'è tutto il mondo dentro. Allora, Francesca, quindi noi sappiamo, siamo contentissimi del fatto che molte delle organizzazioni che stanno adesso qui in piazza, alcune realtà sono per la prima volta entrate in contatto con Genuino Clandestino, e quindi la domanda, diciamo, stupida che abbiamo, stupido è un bel termine, che viene da stupore, quindi sappiatelo tutti. Vabbè, comunque la domanda stupida che stiamo facendo a tutti, insaccente, perché il saccarosio aumenta nel mio cervello e quindi inevitabilmente precipito così. Allora, perché sei così contenta di stare in Genuino Clandestino e perché, anzi, ti senti Frontiera Sud, Genuina Clandestina? Allora, direi perché dall'agricoltura si può dare vita a tantissime battaglie. L'agricoltura ci nutre e quindi è importante sapere da dove viene quello che mangiamo, chi lavora, è proprio poi il tema dei nostri tavoli. È Genuino Clandestino, è clandestino perché è contro i confini, è contro tutte le frontiere contro le quali siamo, e perché è genuino, perché viene dalla terra e non dai fitofarmaci che invece ci hanno purtroppo inebriati in questi giorni e che inebriano tutti i giorni tutta la Piana del Sele. E quindi voi avete un po' gestito il tavolo e insomma, come è andato a finire con il tavolo, ripetiamo, agricoltura industriale nella Piana del Sele e sfruttamento, e a quali conclusioni siete arrivate, insomma, raccontaci un po' come è andata. Devo dire che c'è stata una bella restituzione anche del tavolo, è stato, diciamo, il tavolo incentrato proprio sul territorio dove ci trovavamo. Il campeggio si è svolto in mezzo proprio alle serre della Piana del Sele, quindi ci siamo svegliate la mattina in mezzo alle serre, in mezzo ai lavoratori, le lavoratrici della piana che raccoglievano, proprio ce l'avevamo a un passo da noi, ed è stato interessante perché ha dato uno sguardo non solo sulla terra ma anche su chi la lavora, che lavora ogni giorno lì, e che ha dato poi uno sguardo su quello che è proprio il sistema che gira intorno, cioè il sistema capitalistico che ha tantissimi tentacoli, tocca un po' tutto. E la conclusione, e ci è piaciuto parlare di Frontiera Sud e del dopo scuola, che è, diciamo, una delle attività è l'attività principale che stiamo portando avanti, quindi uno spazio che si dà per un pomeriggio il mercoledì ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che vivono a Campolongo, figli e figlie di persone che lavorano tra le serre. E quindi il dopo scuola è stato, diciamo, c'è stato un bel dibattito su quello che è il margine d'azione che si ha su questi territori e che si può avere, con tantissime complessità. Innanzitutto, nessuna di noi, per esempio, vive a Campolongo, quindi non abbiamo una presenza fissa sul territorio, e questo è complesso, rende complesso comunque il lavoro che si fa. Molte di noi vengono da fuori, quindi, diciamo, è difficile incastrarlo per bene con tutte le cose della quotidianità, però è una forma di resistenza effettivamente lì, e anche di solidarietà, perché si può stare insieme alle persone e giocare, soprattutto con bimbi e le bimbe, fare i compiti, insomma. È comunque Francesca, una presenza fondamentale, sì. Poi sfondi una porta aperta, perché, diciamo, io faccio anche una cosa del genere, e quindi ci vuoi dare qualche dettaglio splatter sullo sfruttamento dei lavoratori nell'industria, nella Piana del Sele? Sì. Se ti va, altrimenti sì, andiamo, certo, avanti. No, allegramente. No. Okay. Diciamo che la Piana del Sele è un territorio veramente difficile, veramente hardcore, direi. Ci sono moltissime persone che muoiono, nelle ultime due settimane sono morti tre lavoratori, per esempio la notizia più recente è di questo ragazzo indiano che è stato lasciato al pronto soccorso di Salerno lo scorso weekend, e tra la notte del venerdì e del sabato, di cui ancora non si è scoperto il nome, non si sa nulla. Si è provato a comunicare con questura, con medici, però non viene detto nulla. E questa è una delle tante storie di cui non abbiamo i nomi, di cui non abbiamo nemmeno un volto poi, purtroppo. E quindi c'è sfruttamento da un punto di vista economico, e quindi contratti in grande parte a nero e solo una parte dichiarata. Le donne tendenzialmente guadagnano meno degli uomini, e la componente di origine non italiana, di origine straniera, è del 61% circa, mentre la restante parte è italiana. Quindi questo è un caso un po', diciamo, particolare rispetto ad altre zone, come può essere il Foggiano, dove tendenzialmente gli stagionali sono tutti di origine straniera. E si lavora a stretto contatto con questi fitofarmaci, infatti spesso il problema, diciamo, i problemi di salute spesso sono legati anche a questo. Potete immaginare, insomma, stare sotto una serra anche ad agosto con il freddo che c'è all'inverno. Spesso viene raccontato dai lavoratori e le lavoratrici, cioè viene spesso detto questo problema, diciamo, del clima che si respira. E c'è un'intervista che è stata fatta da un ragazzo, si chiama Giuseppe Grimaldi, che ha fatto delle interviste sia agli imprenditori sia ai lavoratori, quindi dirigenti di aziende agricole o lavoratori, e uno di loro ha proprio raccontato di quando i capi d'azienda vanno dai caporali e chiedono un numero di ciucci. E quindi questa consapevolezza, poi lui dice, noi questo siamo per loro, siamo dei ciucci di fatica. E Francesca, ti chiedo, se qualcuno, visto che c'è bisogno di menti, di mani, di persone che si impegnino in quello che fate voi, se qualcuno volesse prendere contatto con Frontiera Sud? Allora, con Frontiera Sud c'è il sito di Frontiera Sud, c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram e l'email. Quindi cerchiamoli, Frontiera Sud, sì, sì. Grazie per il lavoro che fate. E ci trovate al doposcuola dalle 4:30 alle 6:30 a Campolongo. Perfetto, grazie mille Francesca, grazie davvero per essere stata qui ai microfoni di Radio Plaza, per il lavoro che fate e per averci riportato queste informazioni. Che facciamo? Andiamo avanti con il programma. Sì. Beh, bella, cioè insomma... L'intervento è stato da riflettere, però volevo proprio quel silenzio sempre lì. Contro tutti i CPR, sempre contro tutte le frontiere, lo vorrei ribadire. Facciamo un altro applauso, signori. Signori qua, diciamo, si prestano alle mie fantasie. Bene, no, un'altra domanda possiamo fare, ho tempo per fare un'altra domanda. Quella ricerca di cui parlavi, sì, sulle testimonianze, è stata pubblicata in qualche modo? Allora, io mi sono riferita per... Prendetevi sti cani! Sull'articolo di Giuseppe Grimaldi che si chiama Frontiere della Modernità. Ok. E si può trovare online. Online, sì. A posto. Vabbè, allora ce ne andiamo in musica, ci facciamo una bella pausa tranquilla. Tranquilla, è sempre un grande... Allora, un classico del jazz registrato da Miles Davis Quintet, veramente, il 26 ottobre del 1956, con John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones. Devo dire altro? Ah, il titolo! Sweet Shoe Just You! Thank you. E allora questa è Radio Plaza, siete in collegamento con collettivutopia.noblogs.org per la diretta streaming di questa puntata nuovissima di Radio Plaza dal titolo Io ne valgo la pena. La citazione la lascio a chi la conosce e quindi Io ne valgo la pena, Genuino Clandestino, Raduno Intergalattico 2026 qui a Salerno o nel Salernitano. Arriva cibo, bene, lasciatelo pure qui. Allora passiamo quindi a alla lettura diretta con Giovanni Pandolfini di un comunicato da parte di Genuino Clandestino adesso. Allora, eccoci qua, questo è un comunicato che all'assemblea di ieri pomeriggio, praticamente anzi quasi tutto il giorno, è uscito fuori questo comunicato che abbiamo scritto stamani con i pochi neuroni rimasti dopo la serata di un po' festosa di ieri, e quindi non abbiamo fatto in tempo a inciderlo sulla pietra, quindi magari qualche modifica ancora può essere fatta, però diciamo il comunicato è questo. Terra Sana, aprile 2026. In occasione del raduno intergalattico tenutosi a Terra Sana, Piana del Sele, dal 17 al 19 aprile 2026, ci siamo interrogati sul presente e sul futuro del movimento contadino genuino clandestino. In particolare è emersa l'esigenza di confrontarsi sulle forme della nostra azione politica. Come si può perseguire l'obiettivo delle autodeterminazioni su cui si fonda il nostro manifesto? Crediamo che l'accesso alle risorse essenziali sia diritto di tutti i popoli della terra. La possibilità di nutrirsi con cibo sano non può essere un privilegio per pochi. In questo contesto abbiamo deciso di opporci alla deregolamentazione dei nuovi TEA, dei nuovi OGM detti TEA, all'agritech e all'ingresso prepotente di nuove tecnologie digitali che rendono chi coltiva ulteriormente dipendente. Tutto questo lanciando una campagna di mobilitazione. Le azioni di sfalcio non sono azioni da criminalizzare, ma pratiche di resistenza. La condanna alle forme di sabotaggio fa parte della narrazione mainstream che non ha interesse a sviluppare un dibattito pubblico. Rifiutiamo l'imposizione di tutte queste soluzioni come le uniche per rispondere ai problemi della modernità causati dalle logiche che li hanno prodotti. Riteniamo la realtà molto più complessa di quello che vogliono far apparire e per cui non riducibile a tali semplificazioni. Inutili specchietti per le allodole. Il 18 maggio verrà votata in Commissione europea la legge che deregolamenterà gli NGT TEA. Le azioni concrete e dirette saranno legittimate e supportate dalla rete come forma di resistenza civile. E questo era Giovanni Pandolfini qui in diretta su Radio Plaza ancora una volta. Io direi che questo è proprio un genuino clandestino, quello qui accanto a me, è proprio lui. Sì, sì, Giovanni, grazie per essere stato di nuovo ai microfoni di Radio Plaza. Vabbè, ma manco un saluto ci fa. No, certo, ve lo fa. Grazie a voi e grazie a questa bellissima postazione sul mare. Grazie tanto davvero, perché insomma ho avuto tante volte, ho avuto modo di apprezzare il vostro modo di comunicare che mi piace tantissimo. E allora facciamo così, visto che abbiamo un po' chiuso anche la questione dei tavoli, giusto una frase, com'è andata? Sui tavoli. Avete ballato sui tavoli. Ci siamo anche divertiti. Bene, bene, ottimo. Questo è Genuino Clandestino. Questo è il raduno intergalattico 2026 qui a Pastena, al Porticciolo. Questa è Radio Plaza. Ringraziamo ancora Giovanni. E il prossimo... Volevo ricordare a tutti quelli che sono nella piazza che tra poco inizia anche l'intervento spettacolo di Caterpillar, che andiamo. È pronto, pronto, è lì, è sì, davvero sì, tra pochissimo. Intanto il brano che sentiamo adesso è Guardia, interpretata da Christian Vollaro. Guardia, e no, o Guardio. Interpretata da Christian Vollaro nel progetto di Daniele Sepe, Le nuove avventure di Capitan Capitone. Il brano prende spunto dalla tragica storia di Davide Bifolco, ucciso da un carabiniere nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2014 nel rione Traiano. Questo per raccontare in forma di canzone post-melodica gli abusi di potere e le problematiche sociali giovanili. Radio Plaza! Non si muore così. Per fare un tavolo ci vuole un fiore. E per fare un fiore? Che ci vuole per fare un fiore? Ci vuole un seme? No, oggi no. Oggi ci vuole un brevetto, un laboratorio biotecnologico e un consiglio di amministrazione. La trasformazione del vivente in organismo geneticamente modificato segna il passaggio definitivo della vita da bene comune a invenzione protetta da proprietà intellettuale, sottomettendo la biosfera alle logiche del capitale industriale. Gli OGM sono il trucco per la concentrazione delle terre nelle mani di pochi giganti dell'agroindustria. Questo processo porta all'espropriazione e alla perdita di autonomia dei contadini e delle contadine, i quali, privati delle possibilità di scambiare e riseminare i propri chicchi, diventano semplici ingranaggi di una macchina produttiva che non controllano più. Thank you. viene venduta l'agricoltura 4.0 come la soluzione ecologica definitiva, ma la domanda è: chi propone la tecnologia, chi la disegna, chi ne detiene la proprietà e il controllo, chi ne trae vantaggio, chi paga i costi sociali delle innovazioni? Dietro droni e algoritmi si nasconde lo strapotere delle multinazionali dell'agrochimica e della biotecnologia. In questo scenario anche la figura del ricercatore è spesso sottratta alla libera indagine per essere posta al servizio del capitale. La ricerca viene orientata non verso la risoluzione della fame nel mondo, come recita la retorica della propaganda pro-OGM, ma verso la massimizzazione del profitto. Per di più, le aziende che sviluppano e producono le agrotecnologie sono le stesse che producono armi e tecnologia di distruzione. Inoltre, la tecnologia non è mai pulita. L'elettronica necessaria all'agricoltura digitale alimenta l'estrazione di terre rare, un mercato intriso di guerre e schiavitù in diverse parti del mondo, creando un legame oscuro, ma mica tanto, e soprattutto diretto, con i nostri campi, tra i campi, il cibo che mandiamo e i conflitti globali. Altro aspetto fondamentale è che questo modello accelera la fine della biodiversità e compromette la qualità dei cibi, ridotti a prodotti standardizzati e poveri di nutrienti. Radio? Plaza! Succede? succede, a volte succede. Ha successo, è successo. Ma successo, successo, è solo accaduto. È un participio passato. È anche una posizione. Su. Vabbè, Sofia, e quindi Sofia, questa è Radio Plaza, Radio Plaza sta per finire, siamo veramente ai saluti finali di questa puntata di oggi, 19 aprile 2026, al raduno intergalattico di Genuino Clandestino qui al Porticciolo di Pastena a Salerno. Questa puntata dal titolo Io ne valgo la pena, questa è Radio Plaza live e streaming su collettivoutopia.noblogs.org. Io ne valgo la pena Genuino Clandestino, io ne valgo la pena giù le mani dal Porticciolo, io ne valgo la pena Radio Plaza. Posso così, tanto per disordinare un po' le cose, io ne valgo la pena anche Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio, ritorna e sta per ritornare a Marigliano la nuova edizione di Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio, seguite su collettivoutopia.noblogs.org. Abbiamo ascoltato pochi secondi fa Aretha Franklin, per chi non l'avesse riconosciuta la sua voce, il brano era Rocksteady, dall'album Young, Gift and Black del 1972. Siamo in conclusione, tra poco dopo ora, di ora, noi, subito. Ora noi subito finiamo. Noi la dobbiamo finire, noi la dobbiamo smettere, qua. Sì, però continua. Perché? Sì, continua la diretta streaming di Radio Plaza che ospita Radici di Gramigna tra poco. Sì, continuate a seguire chi non può essere... Allora, chi può, venga subito, chi se n'è andato, venga subito qui al Porticciolo per lo spettacolo di Caterpillar. Tra pochi minuti, pochissimi minuti. Chi invece è lontano, ma tipo Como, Milano, insomma quelle zone lì, continua a seguire su collettivoutopia.noblogs.org perché lo streaming continua con la puntata di Radici di Gramigna. Radici di Gramigna per i fatti loro, chiaramente. E Gramigna Hi-Fi. Io direi che veramente, insomma, siamo arrivati veramente ai ringraziamenti. Allora, cominciamo da capo. Cominciamo dall'inizio. Allora, sì, cominciamo a ringraziare Genuino Clandestino che stavolta è venuto fin qua giù, tutti a Pastena, al Porticciolo. Ringraziamo tutte le persone agli stand dietro, davanti, intorno, ma tutti li tutte nominiamo. Le persone che no va finì, che poi ce ne dimentichiamo qualcuno, non facciamo i nomi, poi magari vengono a cercarli quelli là, li cercano, quindi senza nomi, gli innominati, non innominabili ma innominati. E ringraziamo tutte le persone che hanno messo la voce ai microfoni di Radio Plaza, tutte le belle persone che sono ancora qui. Ringraziamo veramente anche il comitato del Porticciolo. E basta, va bene così. Io ringrazierei anche Mario che ci ha dato una mano a scaricare la macchina, e ringrazierei anche le altre persone che ci hanno dato la possibilità di attraversare la maratona mentre tutta Salerno era bloccata, ci hanno dato la possibilità di arrivare qui al Porticciolo, che diciamo a tutti, a tutte e a tutti, cercate di difenderlo con i vostri corpi, soprattutto con i vostri corpi, perché diciamo a chiacchiere, diciamo, non serve. Aspetta, un imprevisto. Subito, vai. Visto che stiamo ringraziando, io ringrazierei la vita che ci ha dato la possibilità di essere qui insieme a questa gente, a questi esseri umani che ci danno un senso per il nostro vivere e sopravvivere. Grazie. E questa è la voce di Caterpillar. Sta arrivando. Se no lui non può arrivare. Tra poco arriva il suo spettacolo qua live, ma in diretta solo nella piazza. Chiudiamo, e allora questa è Radio Plaza. Non è finita. È finita invece con l'ultimo brano. Sì. E quindi? No, mi stavo perdendo nel sottofondo. No, lo faccio io. Andiamo di fretta. Sì, andiamo di fretta. E allora ci ascoltiamo qualcosa di veramente nuovo, 2026, Angingo e Quatrin, che stanno scioccando il mondo, dall'album volume 2 o Volci, a seconda di come lo volete leggere, il brano è Mata Ziz Clack. Thank you. Scelta masochistica, sadica, cinica, di farmi fare uno spettacolo con solo piccolo, vabbè, questo, fatemi un applauso, dai. Ho fatto 9.000 km per mettermi i guanti a Salerno domenica 19 aprile. Allora, in genere gli spettacoli di genuini clandestini cominciano con un urlo collettivo alla faccia di chi ci vuole male, come diceva la mia nonna, Amalia. Amalia, ciao Amalia. E allora... facciamo un urlo 1-3 più forte che possiamo, perché ci sentono pure in coppa sto palazzo e qua che stanno già urmen. 1 2 3. No raga, no, non è così raga, ci devi sentire Netanyahu, ci devi sentire il bastardo del Netanyahu. 1 2 3. Quasi, si sente bene? Sì, tutto bene. Già vi siete. Allora, regà! Allora, qua stiamo in campagna, stanno le nuvole che stanno basse, c'è star viadotto, c'è star mare, c'è sta petroliera, però, raga, oggi io mi sento proprio agroecologico, raga, mi sento proprio il guerriero della natura, perché io sono forte, io sono l'agricoltore 4.0, sono proprio maschio, ammazza quanto sono maschio, e mica so più il contadino fesso, sozzo, rincoglionito che si ammazza tutti i giorni di fatica. Io so l'impiegato del divenire, io so lo smanettone del nuovo millennio, sono eroe, raga, fatemi un applauso perché io sono eroe, io sono moderno, io sono aggiornato, sono forte, mi sento, sono sempre più forte, mi sento addosso la potenza, e sapete perché c'ho sta potenza? Perché io c'ho il drone, io c'ho il pannello solare H24, cioè ce n'ho 24.000 sparsi dappertutto che mi strafogano le corrente, ci ho coperto tutti i campi così manco me lo fa più un cazzo. Io c'ho la pala del vento che mi fa pure da spavento passeri, che li mortacci loro desti passeri, ste cornacchi infami, mai una volta che se fanno li cazzi loro. Oh, guarda, io c'ho la console, io c'ho il joystick, c'ho la centralina con sto centinaio di schermi, mi piazzo in poltrona e non faccio più un cazzo del sacro ecologico. Io mi guardo la partita, io mi guardo un po' star sole, io mi guardo la vita in diretta, raga, anche se la vita ormai è sempre indifferita. Io comando tutto da remoto, non so se ve ne rendete conto, da remoto! Io c'ho il trattore a guida autonoma che triccia tutto e scassa tutto il campo da solo. E poi, raga, raga, io c'ho il drone. C'ho il drone. Il drone, che potenza, che bellezza, che freschezza il drone. C'ho il drone che arriva come un angelo e spruzza, vola come un angelo e spruzza. Io non lo so quello che cazzo spruzza il drone, ma spruzza che una meraviglia. Io basta che parlo in chat con l'assistente legale, cioè è l'assistente legale che parla in chat con me, e lui parte, il drone parte come un angelo, arcangelo drone, e spruzza. E se lo spruzzi, ma che cazzo campi a fare? Poi il drone semina, oh, il drone semina pure, quando dice lui, dove dice lui, vabbè, ma semina tutta roba brevettata, oh, tutta roba perfetta, e mica stiamo a giocare qua, quanto mi sento agroecologico. Semina e innaffia pure il drone, e se non lo fermi, te fa pure la lavastoviglie il drone. È intelligente il drone, oh, ammazza quanto è intelligente il drone, e spruzza, e rispruzza, e voglia, ciao, che te ne vai, prova adesso, ho appena iniziato. La puzza e mangi dopo, cioè io mangio dopo, te te ne vai, mangi prima. Vabbè, fanno spruzza pure a lei il drone, attenta che il drone le spruzza, che se non spruzzi non ti metti in testa che devi spruzzare, non cresce un cazzo sulla terra, e invece spruzza, dai, spruzza, così ti esce tutta sta roba che non muore mai, manco se le spari. E il drone guarda il cielo per lustro, oscura, e spruzza, e io meno male, non lo fa più un cazzo. Sono le nuove frontiere di irrigazione, oh. Ah, raga, sono le nuove frontiere, e il drone sa tutto, se no, io dico, lo avrebbero inventato, no? Se no mica lo usavano sto drone per fare le guerre, qua mica stava a giocare, qua stava a fare la guerra, raga, e il drone comanda tutto, e il drone comanda pure i porci, dico io, e gli dice ai porci, gli dice, ci parla con i porci il drone, gli dice quando devono mangiare e quando devono cagare, glielo ordina, caga, e loro cagano, e il drone apre pure il recinto alle pecore, gli fa da pastore alle pecore, altro che mare in mano, altro che sti cani pastore, ma che stava a scherzare, le porta a brucare i campi, e poi le riportano alla stalla, gli strizza il latte con la macchina del latte, e fa il pecorino brevettato a ricotta artificiale, una freschezza, regà, è una freschezza, e io comando da remoto con sto tappeto dei schermi, e non devo fare più un cazzo, per fortuna, non me devo sporcare a merda delle pecore, perché io c'ho il drone, e c'ho pure e Oacche, e Oacche che sta nel capallone, c'è Oacche con il sin, viene, ma non pieni che dici pieni, ma pieni, arriva il drone, gli dà la medicina e gli strizza il sin pure a loro, alle Oacche, e ci fa una caciotta brevettata, raga, ci fa una caciotta brevettata, una caciotta intelligente, oh. C'ho pure le galline, e c'ho pure l'antifurto per le galline fanno la quando dico io, vabbè, quando dice lui, è il drone, e loro sono galline, quindi zitte, ubbidiscono, anzi sono felici, gli sta bene così, pure se dopo un mese schiattano, e le api, ah regà, le api non servono a un cazzo, dopo posso dire, voi che ancora ci credete, ancora che sta a vendere miele, le api non servono proprio a un cazzo, tanti fiori, sono morti tutti, se non sono morti tutti, frantò morono, e poi a che cazzo servono i fiori sono per i froci, sono per roba le froci, e io invece... Io sono maschio! Io sono biomaschio! Sono biomaschio! Oh, sto dentro la cabina tutto il giorno, a guardarmi nello schermo, la campagna che va da sola, va da sola. Non è più la campagna, è la centrale, oh. Sembra che il canale da quando deve partire lo scianto, ma quasi quasi faccio partire un razzo pure io. Basta che mi date la mano, fammi il conto alla rovescia. 10! 9! 7! 6! 5! 4, 3, 2, 1, 0, 0. È partito il razzo, io devo solo pensare ai soldi, devo pensare ai soldi, a tutti i soldi che ci ho messo per pagarmi il drone, e la centralina, e il pannello, e il trattore, e la pala, e lo spruzzo, e la roba brevettata, e non si sa i buffi che devo ripagare, non si sa, ma va bene, però così almeno è una svolta, è una svolta vera, e quando mi ricapita le fiamme i soldi del PNRR, quando mi ricapita le fiamme i soldi della PAC, io qua faccio i soldi veri, regà, io qua divento ricco, tanti soldi che ci ho messo prima o poi mi ridà l'Europa, mi ridà se si ricorda l'Europa, tanto si ricorda, si ricorda Europa, si ricorda, ti ridà, no, mi ridà, allora, quando arriva l'estate, oppure l'inverno, sti cazzi, tanto le stagioni, lo sapete, non ci stanno più le stagioni, sti cazzi, insomma, quando arriva una stagione, io c'ho i droni negri, regà, io c'ho i droni negri che mi raccolgono i pomodori quando che sono pronti, mi raccolgono le arance, mi raccolgono le mele, mi raccolgono i cocomeri quando che sono pronti, quando che sono perfetti, e lo sapete quando sono perfetti i cocomeri? Quando non sanno del cazzo e sono tutti uguali, tutti belli, brevettati, pace all'anima loro, i droni negri mi raccolgono i cocomeri come e io me li vado a vendere, ce vado al mercatino bio, mica sta stronzata che avete fatto qua, al vero mercatino bio, io vado al vero mercatone bio, io li vendo alla coppia i cocomeri, io li vendo all'esse lunga, li vendo a natura sì, pure se non è bio, manco per cazzo, ma che cazzo me ne frega a me, io intanto li vendo, poi se la giochiamo, intanto mi godo i soldi del PNRR. Oh, però c'ho, intanto c'ho pure di voi e mio figlio che gli sono venute le bolle per il carciofo brevettato, ho fatto il carciofo brevettato, gli sono venute le bolle e mo c'hanno il sangue brutto loro e sono tristi, sono depressi, stanno sempre a piangere, dicono che io li voglio avvelenare, ma dove? Ma che me ne frega a me? Non me ne rompo a me, insomma gli ho dato il calmante, che gli davo? Almeno se stavo al sito, gli ho dato il calmante, gli ho dato l'antibiotico, tiè, oh, becca questo antibiotico, è lo stesso antibiotico che gli do la vacca, tiè, almeno con la vacca funziona, la vacca si calma, non scureggia più, ma magari pure di moglie non scureggia più, ma dovete dare la calmata, moglie, figlio, una volta per tutte, non mi dovete romper cazzo, perché io sono forte, io quanto sono forte, quanto sono maschio, io devo comandare il campo. Io non posso stare dietro a ste cazzate, io sto dentro la centrale operativa, io sto nella torre di controllo totale, con l'intelligenza artificiale che mi parla, mi dice le cose, non si zitta mai, io sono il regista del campo dagli schermi, mica c'ho tempo da perdere con ste fregnacce, dai mio figlio che piagna e mi voglia che baccaglia, io ho una responsabilità, io non so se voi genuini clandestini capite la parola responsabilità, ah, capite? No, io mica sto a giocare, io sono il contadino moderno, io sono agroecologico, sono maschio, sono bio maschio, non mi deve più sporcare mano col cazzo che mi spezzo la schiena, con lo stragazzo che ritorna a zappalatera. Io c'ho il drone, regà, e c'ho la centralina, e c'ho il sensore, e c'ho il radar, c'ho il mega trattore grosso come la casa, c'ho pure il joystick con tutti gli schermi. E poi sapete che faccio? Io c'ho le zucchine modificate, regà, c'ho le patate modificate, regà, c'ho il fagiolino elettronico, c'ho la lenticchia clonata, c'ho il cecio bionico, regà, c'ho la melanzana dei Superman con la criptonite, c'ho la fava atomica, regà, c'ho il pisello connesso, c'ho il cavolo intergalattico. E poi Ciro, scusa, dove sta? C'ho il grano spaziale, Ciro. C'ho il grano spaziale. Sta roba è forte, regà. Sta roba è così forte che potrebbe crescere pure sulla luna. Senza aria, senza acqua, senza terra. Che cazzo ce ne frega? Ma quasi quasi ci provo. Magari, come vedete, un bel campo sulla luna. Col drone che spruzza. E sti cocomeri che escono, poi ci mandano i droni negri a raccogliere. Poi non funziona. Comunque, regà, ma che vuoi che fa? Intanto, mentre che aspettiamo sto pomodoro lunatico nucleare, godiamo questo momento. Tanto io non c'ho un cazzo da fare.